Pietro, hai parlato di blockchain. Mi dici in modo semplice di cosa si tratta? Valeria, per blockchain, quindi catena di blocchi, si intende una cosa in realtà semplice. Non è altro che un database distribuito, decentralizzato e condiviso dai partecipanti di una rete in forma criptata. Ok, lo spiego male. Valeria, pensa al classico paesino della provincia italiana, di quelli nei quali tutti si conoscono, fanno parte di una comunità che condivide luoghi, interessi, commerci e relazioni personali. Una rete, insomma. Nel paese che chiameremo Internetto arriva una nuova maestra e dopo qualche settimana le comari iniziano a scambiarsi una serie di informazioni piuttosto corpose su una ipotetica storia d'amore fra lei ed il farmacista. Creano un database, insomma. Le chiacchiere non vengono pubblicate sul quotidiano locale, ma passano da persona a persona, quindi in modo decentralizzato, tanto che ad un certo punto ne erano a conoscenza tutti gli interessati. Insomma, la notizia, il database dei due ipotetici innamorati, ormai è distribuita in modo decentralizzato e condiviso dalla rete degli interessati. I nostri simpatici internettesi sono un po' sì chiacchieroni, ma cercano di fare in modo che le loro indiscrezioni rimangano circoscritte e non vogliono che arrivino alle orecchie di persone invidiose che possano intromettersi in questa storia. Quando ne parlano, lo fanno in modo metaforico, usando dei nomignoli piuttosto che i veri nomi dei protagonisti. Usano un codice per parlare in forma criptata, insomma. Orecchie indiscrete capirebbero che circolano delle informazioni, ma non conoscendo il codice non sarebbero mai capaci di inserirsi nella conversazione. Ecco, Valeria, spiegata male. La blockchain concettualmente è questo. Applicando le tecnologie informatiche oggi a disposizione, rappresenta la possibilità di trasferire informazioni da persona a persona in modo tale che nessuno possa modificarle. Ovviamente, se ci ragioni un po', ti rendi conto delle implicazioni di questa tecnologia.